GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha illustrato a Trieste le opere strategiche e i cantieri aperti nel paese, oltre ai progetti per il Friuli Venezia Giulia. Entro l'estate, ha detto Salvini, partiranno i lavori per la cabinovia di Opicina. Nuovo accoltellamento tra stranieri a Trieste, accaduto la scorsa notte in via Dalviano di fronte a un centro commerciale nelle pertinenze di un condominio. Due le persone ferite, una delle quali in modo grave, ancora in fuga l'aggressore. Non è ancora chiara la dinamica. La Marina colombiana ha recuperato il corpo di uno studente friulano che risultava essere disperso dopo un incidente in mare avvenuto lunedì notte nei Caraibi, dove si trovava in vacanza. Il 4 dicembre si festeggia Santa Barbara, protettrice dei marinai e dei vigili del fuoco. La ricorrenza è stata ricordata con cerimonie in tutti i capoluoghi. Al comando di Udine è arrivato il messaggio di solidarietà dal capo del Corpo Nazionale. L'ospedale di Tolmezzo guarda i prossimi anni con un progetto di ristrutturazione e ampliamento, investimenti su tecnologie e risorse umane, inclusi incentivi per chi decide di lavorare in montagna e l'istituzione di un asilo nido per il personale. La scuola superiore in 4 anni prende sempre più piede anche negli istituti della regione. Tra i primi a crederci, 3 anni fa, l'istituto dell'Edda Fabiani di Trieste, che aprì un percorso in risposta alla carenza di sanitari emersa in pandemia. Mario Biondi, tra gli artisti più attivi e apprezzati all'estero, ha fatto tappa ieri sera al Teatro Comunale di Monfalcone con il suo primo progetto interamente italiano, rivisitando la canzone d'autore con il suo stile inconfondibile. Una traccia indelebile, l'obiettivo di Ugo Borsatti sui fatti del 1953 e il titolo del documentario del regista Diego Cenetiempo, che offre l'occasione di riscoprire la storia delle giornate di 71 anni fa rimaste nella memoria di tutti i cittadini. Le 12:32 minuti, questi titoli. Buongiorno da Giorgio Bearz e Eva Ciucchi in studio per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di mercoledì 4 dicembre. Oggi a Trieste il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che questa mattina ha illustrato le opere strategiche e i cantieri aperti nel paese, oltre ai progetti per il Friuli Venezia Giulia, nell'evento itinerante L'Italia del Sì, dedicato ai progetti infrastrutturali per il futuro del paese. E nell'occasione il ministro Salvini ha affermato ai nostri microfoni che entro l'estate sarà dato il via ai lavori per la cabinovia di Opicina. I soldi per la cabinovia di Trieste ci sono, lo ha affermato il ministro dei trasporti e vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini a margine della tappa regionale dell'evento L'Italia del Sì. I lavori cominceranno entro la prossima estate e l'opera sarà pronta nel 2027, ha annunciato Salvini. L'infrastruttura era stata esclusa dal finanziamento del PNRR, ma era stata confermata previo reperimento dei fondi pari a oltre 60 milioni. Nella sua presentazione il ministro ha parlato di progetti e investimenti per l'Italia e per il Friuli Venezia Giulia, dalle strade alle ferrovie, dagli aeroporti ai porti. Proprio entro dicembre attesa una decisione sulle 8 autorità portuali, cui i presidenti sono in scadenza, ha detto Salvini. Tra i porti che attendono una nuova nomina c'è Trieste. Dal palco della stazione marittima Salvini ha citato il nodo di Udine e la lunetta di Gorizia tra gli investimenti ferroviari per un costo totale di oltre 5 miliardi. A fare gli onori di casa è il sindaco Roberto Di Piazza, che ha ringraziato Salvini proprio per il finanziamento della cabinovia. Mentre il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha chiesto a tutte le istituzioni di non perdere tempo sul Porto Vecchio. Ogni riferimento alle soprintendenze è puramente casuale, ha aggiunto Salvini successivamente. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca registra un nuovo accoltellamento tra stranieri, è avvenuto nella notte a Trieste in un appartamento dell'ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, in via Dalviano, di fronte al centro commerciale. 2 le persone ferite. Si tratta di 2 cittadini pakistani richiedenti asilo, uno dei quali è stato ferito in modo grave. In fuga l'aggressore, anche lì pakistano. Non è ancora chiara la dinamica sull'episodio, indaga la polizia. L'accoltellamento è avvenuto al numero 84 di via Bartolomeo Dalviano, uno stabile di 5 piani in cui l'ICS, Consorzio Italiano di Solidarietà, gestisce 2 appartamenti in cui vengono ospitati diversi rifugiati e migranti. Secondo la testimonianza di uno degli ospiti alloggiati al 2° piano, la lite è scoppiata nell'appartamento al piano terra tra 2 uomini pakistani di etnia Punjab, uno dei quali armato armato di coltello. L'aggredito ha riportato diverse ferite, tra cui un ampio taglio alla guancia. Nel filmato che il migrante accorso sul posto ha realizzato con lo smartphone si vedono il pianerottolo e alcune stanze cosparsi di ampie chiazze di sangue che sembrano partire dalla zona letto. Nell'appartamento erano ospitate 4 persone e nella colluttazione anche un terzo uomo è rimasto ferito in forma leggera. Attualmente infatti all'ospedale di Cattinara sono ricoverate 2 persone, una grave e l'altra per accertamenti. L'accoltellatore è poi fuggito e al momento è irreperibile. Il pianerottolo ora è stato ripulito, ma rimangono alcune tracce ematiche sulle pareti. Una volta uscito all'esterno, il ferito ha continuato a perdere sangue fino ad arrivare su via Dalviano di fronte al centro commerciale Torri d'Europa, dove le tracce sono evidenti su una superficie di oltre 4 metri. I residenti dello stabile riferiscono di frequenti episodi di confronto verbale anche dai toni accesi tra gli ospiti dei 2 appartamenti. Gli investigatori della Questura di Trieste stanno verificando le condizioni di salute dei 2 ricoverati prima di procedere agli interrogatori. Il presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà Gianfranco Schiavone, che si sta occupando del caso, afferma che non sono noti i motivi che hanno scatenato l'episodio. L'accoltellatore non risulta avere a suo carico precedenti penali e non era seguito dai servizi psichiatrici. Trieste, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Ancora cronaca, la Marina colombiana ha recuperato il corpo dello studente friulano Nicolas Cudini, 26 anni, di Pocenia, che risultava disperso dopo un incidente in mare avvenuto lunedì notte vicino all'isola di Cholon, a sud di Cartagena de Indias, nei Caraibi, dove si trovava in vacanza. Lo riporta il quotidiano Messaggero Veneto, la notizia è stata confermata dalla sindaca di Pocenia. Secondo una ricostruzione, Cudini, che studiava alla Santa Clara University in California, era in sella una moto d'acqua insieme a una ragazza quando si è scontrato con un'imbarcazione in transito. La ragazza che accompagnava Cudini è riuscita a riemergere, ha immediatamente lanciato l'SOS per iniziare le ricerche del disperso, poi, come detto, trovato senza vita. Una donna di 69 anni è rimasta ferita dopo essere precipitata a bordo della sua auto per una ventina di metri sulla scarpata occupata da boscaglia sulla strada che all'uscita da Taipana va da Borgo di Sopra a Monte Maggiore. Sul posto l'elisoccorso regionale. La donna è stata estratta dall'abitacolo o imbarellata, calata fino alla strada sottostante e trasferita in ospedale in condizioni gravi. La scuola superiore in 4 anni, lanciata tempo fa in modo sperimentale, prende sempre più piede anche negli istituti della regione. Tra i primi a crederci 3 anni fa l'istituto dell'Edda Fabiani di Trieste, che aprì un percorso in risposta alla carenza di sanitari emersa in pandemia. Il servizio non è ancora pronto. Passiamo allora alla Santa Barbara, la festa di Santa Barbara, che è appunto è protettrice dei marinai e dei vigili del fuoco e che si festeggia ogni anno il 4 dicembre. La ricorrenza è stata ricordata con cerimonie in tutti i capoluoghi. Al comando di Udine è arrivato il messaggio di solidarietà del capo del Corpo Nazionale. La suggestiva calata della bandiera italiana dal castello di manovra, preceduta dalla deposizione della corona sulla lapide dei vigili del fuoco caduti, ha aperto la giornata di Santa Barbara, protettrice dei pompieri al comando provinciale di Pordenone. Una ricorrenza che cade in un momento delicato, con l'indagine in corso per la tragedia del Natisone. Al comando di Udine è arrivato il messaggio di solidarietà dal capo del Corpo Nazionale. Giorgio Basile, comandante provinciale Vigili del Fuoco Pordenone. Ciascuno di questi interventi può comportare anche delle conseguenze. Io ribadisco poi, per quanto riguarda il fatto dell'indagine, quanto dichiarato poi dal Dipartimento sul fatto sulla massima fiducia degli operatori nostri e ovviamente nella magistratura che farà il suo lavoro. Nell'ultimo anno sono stati più di 5.000 gli interventi di soccorso in Friuli Occidentale, 8.860 in provincia di Udine, entrambi in calo anche grazie al ridimensionamento delle situazioni legate alle grandinate del 2023. Ancora il comandante Basile. Sono aumentati invece gli interventi per gli allagamenti e per problemi legati all'acqua, quindi alle grandi piogge. Questa sarà una sfida che dobbiamo affrontare. Una ricorrenza particolarmente sentita per i vigili del fuoco, e c'è anche chi proprio a Santa Barbara saluta il primo giorno di pensione dopo 35 anni in prima linea. L'ex caporeparto dei vigili del fuoco di Pordenone, Guglielmo Pugliatti. Cosa significa per lei essere vigile del fuoco? Tanto, portare gioia alla gente che ha bisogno, secondo me è il massimo che uno possa dare, perché si riceve anche dalla gente dove si porta il soccorso, ti danno tanto, solo per dire grazie, secondo me ci riempiono il cuore in una maniera incredibile. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Tolmezzo, futuro e nuove prospettive per l'ospedale di montagna. Questo è il titolo dell'incontro che si è tenuto questa mattina nell'aula magna dell'ospedale Carnico, un'occasione voluta da ASUFC per salutare il dottor Loris Dollando, che terminerà il suo incarico nell'azienda sanitaria dell'Alto Friuli per quiescenza. L'ospedale di Tolmezzo guarda i prossimi anni con un progetto di ristrutturazione e ampliamento, investimenti su tecnologie e risorse umane, inclusi incentivi per chi decide di lavorare in montagna e l'istituzione di un asilo nido per il personale. Di passato, ma soprattutto futuro, del nosocomio Carnico si è parlato nel corso di un evento, presente l'assessore regionale alla salute Riccardi e i vertici dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. Commosso l'intervento del direttore medico Loris Dollando al suo ultimo giorno di lavoro sulla storia del presidio di salute. Aveva appena due reparti l'ospedale degli anni 30. L'internista, il dottor Sindone, era chiamato il medico dei poveri. A metà anni 70 venne inaugurata la nuova struttura, vennero giù tutti i carnici, dice Dollando, a guardare sorpresi quell'ospedale che era grande come quello di Udine. Negli anni 2000 infine la costruzione del pronto soccorso e l'ampliamento dell'area degenze. Quasi 33 milioni di euro di finanziamenti, stanziati dal 2015 al 2018, permetteranno di ingrandire il pronto soccorso con avvio lavori entro la primavera 2025, realizzare un nuovo edificio poliambulatorio e parcheggio, procedura di gara entro fine 2025, adeguamento sismico dell'ala est, infine, e nuovo ingresso con opere esterne, con avvio progettazione entro il 2026. A livello tecnologico sarà installata una nuova TAC, nuovi sistemi radiologici mobili, un nuovo laser per chirurgia, urologia e un nuovo ecografo per la sala operatoria chirurgica. Quanto agli investimenti nelle risorse umane, proposte una più stretta collaborazione con rotazione di professionisti con l'ospedale di Udine, l'istituzione di una sezione staccata del corso di laurea in scienze infermieristiche, borse di studio vincolate all'obbligo di prestare qui servizi almeno 5 anni e incentivi per il personale che decide di lavorare in territori disagiati, inclusa l'istituzione di un asilo nido interno. Per fare in modo, conclude Dollando, che la gente guardi all'ospedale di Tolmezzo ancora come nel 74, meravigliandosi di come è grande in tutti i sensi, come quello del capoluogo. Tolmezzo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Alle 12.42 minuti diamo uno sguardo al tempo, il cielo da nuvoloso ha coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 10 gradi, il vento soffia a 51 km orari da est-nord-est, Bora con raffiche che hanno raggiunto gli 80 km orari, a Gorizia 10 gradi, a Udine Pordenone 9 gradi e mezzo. A Tolmezzo 7 gradi, a Forni di Sopra 4, a Piancavallo 2, a Sappada 1 grado, a Tarvisio 5 decimi di grado. Sul Monte Zoncolan meno 3 gradi, su Lussari meno 4. Sulla costa a Grado 11 gradi, a Lignano 10 gradi e mezzo. Le previsioni oggi pomeriggio, cielo in prevalenza variabile, saranno possibili nubi sparse o nebbie sul Tarvisiano, soffierà bora moderata sulla costa e sulle zone orientali, sostenuta su Trieste e sull'Isontino. Domani cielo poco nuvoloso sul Tarvisiano, saranno possibili nubi basse o nebbie, specie durante la notte. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà bora moderata, gelate notturne sulla pianura e nei fondovalle. Dopo il voto negli Stati Uniti e la nomina della nuova Commissione, l'Europa al bivio tra irrilevanza e nuovo protagonismo. Il titolo dell'incontro promosso dall'ANDE, Associazione Nazionale Donne Elettrici di Trieste, in programma alle 17 nella sala tessitori del Consiglio regionale in piazza Oberdan a Trieste. Protagonista dell'incontro, che avrà per tema il futuro dell'Europa nell'attuale scenario internazionale, sarà l'ambasciatore Ferdinando Nelli Feroci, presidente dell'Istituto Affari Internazionali e docente alla School of Government della LUIS. Introduce la presidente di ANDE Trieste, Etta Carignani. E Mario Biondi, tra gli artisti più attivi e apprezzati all'estero, ha fatto tappa ieri sera al Teatro Comunale di Monfalcone. La sua voce profonda, calda, capace di risvegliare emozioni intense e creare quell'atmosfera magica quasi surreale. Quella di Mario Biondi è una delle più belle voci maschili italiane e più apprezzate all'estero, capace di passare dal jazz al soul, dal funk americano alla musica brasiliana e al pop dance. Ha appassionato il pubblico monfalconese al Teatro Comunale, dove l'artista ha proposto il suo primo progetto interamente italiano, rivisitando la canzone d'autore con il suo stile inconfondibile dalle sonorità jazz e soul. All'anagrafe Mario Ranno, il 53enne cantautore siciliano ha proposto alcuni dei brani che hanno avuto un ruolo determinante nella formazione artistica di Mario Biondi, che ha infatti dichiarato più volte di essere cresciuto ascoltando musica italiana, in particolare quella dei grandi cantautori ed interpreti degli anni 70 e 80, una celebrazione nel mondo intimo del crooning, di cui Mario Biondi è uno dei maggiori esponenti italiani nel mondo. Per lo sport, il volley femminile in A1, impegno di campionato per le ragazze della CDA Talmassons, che saranno di scena in trasferta questa sera sul parquet della Bisonte Firenze, inizio alle 20:30. Senza di loro lo sport non esisterebbe, almeno quello agonistico. Invece ogni sabato e ogni domenica ad ogni livello sono presi di mezzo a parole da tesserati e familiari. Sono gli arbitri, alcuni dei quali sono stati ospiti questa mattina nella nostra rubrica Buongiorno Regione. Senza di loro non ci sarebbero partite né di calcio, né di basket, né di nessun altro sport a nessun livello. Eppure gli arbitri ogni weekend vengono presi di mira con episodi che vanno dallo spiacevole insulto a rari casi di confronto fisico e riguardano spesso adulti, dirigenti, allenatori o genitori che se la prendono con ragazzi appena maggiorenni, specchio di una società che è cambiata. Riccardo Ross, presidente arbitri calcio Friuli Venezia Giulia. Purtroppo quello che succede nei terreni di gioco è lo specchio di quello che accade nella società, quindi c'è un po' di maleducazione, poco rispetto dell'autorità. Un arbitro in quest'anno e anche la scorsa stagione è finito pronto soccorso perché ha ricevuto un colpo da un allenatore, in questo caso dei dirigenti. Quindi situazioni veramente spiacevoli che bisogna in qualche modo eliminare. A volte gli insulti, soprattutto per le ragazze, sono duri da digerire. Marta Tononi, arbitro di calcio. Sicuramente si torna a casa un po' sconfitti, con sconforto, ma la passione prevale su qualsiasi sentimento e quindi si è sempre pronti ad arbitrare il prossimo weekend. Nel basket la situazione è leggermente migliore, anche se esiste una crisi di vocazione, soprattutto a Udine. I poco più di 200 fischietti non bastano. Luca Longo, responsabile arbitri Friuli Venezia Giulia. La mancanza è drammatica, provano sia che ci sono due campionati giovanili, under 13, under 14, sia maschili che femminili, che ai quali non riusciamo a dare copertura con tutti i problemi ad essa connessi. Serve una maggior collaborazione con le società. Credo che le società potrebbero e dovrebbero fare qualcosa di più, perché è evidente che secondo me, ma credo che sia una questione di buon senso, gli arbitri, i futuri arbitri, non possono che venire fuori dai settori giovanili delle società. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. La scuola superiore in 4 anni, lanciata da tempo fa in modo sperimentale, prende sempre più piede anche negli istituti della regione. Tra i primi a crederci 3 anni fa è stato l'istituto dell'Edda Fabiani di Trieste, che aprì un percorso in risposta alla carenza di sanitari emersa in pandemia. Nel servizio di Anna Vitaliani l'intervista alla preside dell'istituto, Tiziana Napolitano. Hanno tra i 15 e i 16 anni e tra un anno il diploma già in tasca sono gli studenti dell'indirizzo quadriennale in biotecnologie sanitarie dell'Istituto Tecnico dell'Edda Fabiani di Trieste, uno dei primi in regione ad aver attivato nel settembre del 2022 il percorso in 4 anni. 38 ore settimanali, 4 giorni su 5 finiscono scuola alle 16:15, un percorso intenso ma dal futuro certo. Dopo i 4 anni i ragazzi hanno le competenze per accedere a tutti i corsi universitari, in modo particolare medicina, infermieristiche, non solo, ma hanno le competenze anche per accedere direttamente ai corsi dell'ITS Academy, in modo particolare dell'Life Tech. Consapevoli delle opportunità offerte da questo percorso, i ragazzi che 3 anni fa lo hanno scelto. Mi sembrava un'ottima opportunità, una di quelle che capita una volta nella vita e volevo mettermi alla prova. Cosa vuoi fare dopo? Medicina. Sapevo di voler fare comunque un percorso di medicina di questo genere e quando mi hanno proposto di fare 4 anni invece che 5 ho preferito, sapendo che comunque medicina ha tanti anni. Creare il quadriennio nell'indirizzo sanitario è stata una scelta motivata dalla pandemia. Ci siamo accorti di quanto avessimo bisogno di personale sanitario e anche capace, e quindi pensare di far arrivare questi ragazzi ben preparati un anno prima all'università, insomma, abbiamo creduto fosse una buona strada e percorribile. La scuola è dotata di laboratori nuovi e anche per le materie più tradizionali si utilizza la didattica per scoperta. Cosa vuol dire? Privilegiare sostanzialmente metodi induttivi rispetto a quelli deduttivi. Quindi partire da un problema, partire da un fenomeno da analizzare e possibilmente in modo interdisciplinare per poi sviluppare le conoscenze che serviranno. Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Sarà Alberta Basaglia la protagonista della seconda edizione della rassegna A casa con Margherita, promossa dal comune di Gradisca di Sonzo e dalla locale sezione dell'Unione Donne in Italia. Durante l'incontro alle 18 nella sala del Consiglio Comunale di Gradisca di Sonzo verrà presentato il lavoro di Alberta Basaglia dal titolo Le nuvole di Picasso, in cui racconta come ha vissuto da bambina il lavoro e la rivoluzione di Franca e Franco Basaglia. L'ha raccontato anche a noi in questa intervista. Il lavoro dei miei genitori e delle persone che lavoravano con loro passava sempre anche per casa. Io l'ho vissuto pensando che quello fosse il modo di vivere, e un po' alla volta poi in rapporto con i miei amici, le mie compagne di scuola delle elementari e poi quelli più grandi, ho capito che le altre famiglie erano un po' diverse, però devo dire che mi è piaciuto crescere in quel clima. Quella bambina poi è diventata psicologa, ha fatto tantissime cose, ha lavorato con i giovani e continua a lavorare con tematiche legate alle discriminazioni, alle diversità e soprattutto al contrasto della violenza di genere, tema di cui si occuperà oggi. Bisogna da un lato stare attente ai rapporti che mettiamo in piedi con gli uomini di cui ci innamoriamo, e dall'altra parte anche però avere fiducia in se stesse e saper riconoscere chi e cosa abbiamo davanti, perché siamo capaci di farlo e quindi dobbiamo pensare alla nostra forza. Una traccia indelebile, l'obiettivo di Ugo Borsatti sui fatti del 1953, il titolo del documentario del regista Diego Cenetiempo, che offre l'occasione di riscoprire la storia delle giornate di 71 anni fa, rimaste nella memoria di tutti i triestini e non solo loro. Appuntamento alle 17.30 a Palazzo Gopcevic. Io dovevo documentare che era come una missione. Una traccia indelebile, l'obiettivo di Ugo Borsatti sui fatti del 1953, è il nuovo documentario prodotto dalla Cappella Underground. Dovevo documentare, era come una missione, dice Borsatti, grande fotografo triestino. Fra poche settimane compirà 98 anni. Quando nel novembre del 53 scoppiarono i moti di Trieste, aveva iniziato da un paio di mesi la professione di reporter. Quello fu il suo primo importante servizio. A distanza di 70 anni per il maestro, l'intenzione è ancora quella di ricordare innanzitutto chi in quei giorni è stato ucciso, ferito, chi è sopravvissuto ma ha sofferto la perdita dei propri cari, giovanissimi e anziani, dimostranti e passanti. L'ambizione di Borsatti è di arrivare ai più giovani che non conoscono o conoscono solo in parte i fatti di novembre, per raccontare visivamente un pezzo della storia che non va dimenticato. Immagini che rimandano a una delle pagine più dolorose vissute dal capoluogo giuliano. Furono 6 i caduti nella rivolta per l'italianità della città, che era ancora sotto il controllo del governo militare alleato. La foto è già nata al momento del click. Il click, il famoso click. Non il click lì di oggi. Una traccia indelebile, l'obiettivo di Ugo Borsatti, offre l'occasione di riscoprire la storia con la S maiuscola di quelle giornate, ma soprattutto le storie di ogni singola fotografia, in un racconto in cui il privato e il pubblico si fondono, l'esperienza soggettiva si fa oggettiva, l'episodio diventa storia e memoria condivisa. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. La Friulana Società Cooperativa Sociale Arte e Libro ETS, invitata dalla Ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli, parteciperà a una sessione dell'ONU dedicata alla creatività legata al mondo della disabilità in programma a New York il prossimo giugno. L'annuncio è stato dato nel corso del Diversity Christmas Day, evento svoltosi all'Auditorium Biofarma di Meneto di Tomba, organizzato da Biofarma con Confindustria Udine in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, in cui si è dibattuto sul tema dell'inclusività lavorativa. Inizia oggi la 2 giorni di lavoro della residenza artistica in Friuli Venezia Giulia. Gli artisti dello spettacolo incontreranno il mondo della produzione e della distribuzione, la vetrina degli operatori e degli artisti in residenza. In programma Gorizia oggi e domani è l'Auditorium della Cultura Friulana, un ponte tra le residenze creative e culturali e i diversi livelli del sistema nazionale dello spettacolo dal vivo, senza snaturare la peculiarità dell'esperienza di ricerca, studio e sperimentazione che caratterizza la residenza artistica e che prevede anche il finanziamento di esperienze culturali non mature per la produzione. Anche quest'anno il Teatro Rossetti di Trieste mette in scena lo spettacolo conclusivo dell'anno di studio e formazione posto in atto dalla scuola Starts Lab, diretta da Luciano Pasini. La pièce, intitolata Snob, è tratta dal capolavoro di Molière, Il borghese gentiluomo, e vedrà protagonisti i giovani allievi del corso di età compresa tra i 13 e i 18 anni. Debutto alle 17:30 in Sala Bartoli, con repliche fino al 15 dicembre. Blocco genocida, guerra psicologica. Questo è il titolo dell'incontro dedicato alla situazione a Cuba, a cui parteciperà la psicologa cubana Irma González Salanueva. A Trieste, alla Casa del Popolo di Funziana, alle 18. È difficile pensare alla civiltà medievale senza tenere in considerazione i suoi miti fondanti, tra i quali spicca il Santo Graal, nato con la letteratura medievale del ciclo di Re Artù. Ne parlerà il saggista e scrittore Paolo Gulisano questa sera all'Auditorium Vendramini di Pordenone alle 20:30. Quello che le piante non dicono ma fanno alla grande. Il volume scritto dal pordenonese Riccardo Rizzetto risponde a tutte le curiosità che abbiamo sempre avuto nel mondo dei vegetali, mettendosi dal loro punto di vista. L'autore lo presenterà oggi alle 18 all'ex tipografia Savio in via Ponticelli a Pordenone. Nuovo appuntamento con il progetto del Teatro Verdi di Pordenone nell'ambito del Montagna Teatro Festival per riflettere su una nuova idea di montagna. Oggi nel ridotto del teatro si parlerà di selvatico, domestico, selvatico, diffidenze, scontri, coesistenze, con la fondatrice di Appia Rete Italiana della pastorizia verdiana Camilla Morandi e con Daniele Zovi, scrittore e membro del Corpo Forestale dello Stato, alle 18. Per il ciclo di concerti degli Amici della Musica di Udine, in scena questa sera al Palamostre il direttore austriaco Ernst Hützel, la violinista polacca Carolina Nowoczynska e la flautista Margherita Bronski, con un programma che spazia dal periodo barocco al Novecento. Inizio alle 19:20. E alle 12:57 termina qui questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Eva Ciucca e Giorgio Beers, con la collaborazione tecnica di Andrea Fontanotte e di Walter Bidonis. Ha collaborato in redazione Daniela Sossi. Prossimo appuntamento con il giornale radio alle 15. A tutti l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.